L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Come ogni settimana siamo qua per raccontarvi altri punti di vista sull'Europa. In queste puntate di agosto ci stiamo concentrando per vedere quelle che sono ricadute concrete. Abbiamo preso alcuni filoni, oggi parleremo in particolare di turismo e territorio per raccontarvi quanto l'Europa sia presente, quelle che sono opportunità, cioè soldi che diventano progetti, questi progetti prendono vita, e oggi vi faremo conoscere un po' di queste belle storie. Come sempre, euronetplus.io, il portale del network al quale apparteniamo, le coordinate invece per trovarci sulle nostre piazze virtuali sono euronetplus r24, oppure il mio account personale @FedericoTaddia, sia su Facebook sia su Twitter, bacheche che andiamo ad aggiornare minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Ogni settimana un viaggio, oggi partiamo pedalando. Turismo e territorio, ossigeno vitale per la nostra Europa, e c'è un modo per fare turismo e per conoscere il territorio in maniera sostenibile, ed è quello del pedalare, ed è quello della bicicletta. Andiamo quindi alla scoperta di Eurovelo, che è un gruppo di itinerari ciclistici che attraversano tutta l'Europa. Con noi c'è Claudio Pedroni, responsabile del coordinamento nazionale italiano. Ciao Claudio, benvenuto all'Altra Europa, buon sabato. Buongiorno Taddia, buongiorno. Allora si può pedalare questa Europa? Certo che si può pedalare, c'è questo bellissimo progetto, si chiama Eurovelo, alcuni dicono Eurovelo per alla francese, ma in realtà si può dire Eurovelo. L'idea è quella di buttare giù circa 70.000 chilometri in bici, da farsi in bici, per cui c'è tutto il tempo, e per tutta l'Europa geografica, e questo è l'aspetto più interessante, nel senso che il progetto non considera solo la UE strettamente intesa, ma tutta l'Europa geografica. Certo, un progetto sostenuto dalla Commissione europea, e progetto che attualmente conta quanti itinerari? Attualmente ci sono 13 itinerari che, ripeto, interessano tutta l'Europa. Adesso elencarli tutti faccio fatica, ma vanno dall'Atlantico fino a Mosca e da Capo Nord fino a Malta. Ce ne sono tre che interessano l'Italia, in particolare Eurovelo numero 5, numero 7 e numero 8. Uh-huh. E Claudio, ma quando si parla di itinerari significa che è solo stata così tracciata una linea, o ci sono comunque sono itinerari con segnalettica, con supporto anche sul territorio, cioè qualcosa che va al di là di una semplice mappa? Sì, esatto. Allora, la situazione non è uguale in tutta Europa, però quando si parla di itinerari, ovvero ciclovia, ovvero come dicono i tedeschi Radroute oppure Cycle Route, intendiamo un percorso segnalato, per cui un percorso adatto al ciclista, che non vuol dire necessariamente che è pista ciclabile al 100%, ma sono percorsi abbastanza facili dove il traffico è o nullo, e allora siamo nella pista ciclabile, oppure molto molto basso, molto modesto, compatibile con l'uso ciclistico. Ancora non siamo a 70.000 chilometri segnalati e protetti, ma molti di questi, soprattutto quelli dell'Europa centrale, ovvero Germania, Austria, Olanda, Francia, già sono percorribili anche attraverso la segnaletica e attraverso anche le risorse disponibili online, con le tracce GPS e tutte queste robe, e le mappe che si possono trovare anche localmente. Eurovelo.com, se volete conoscere il sito e vedere questa ragnatela, questa rete di itinerari da Capo Nord a Malta, di fatto, c'è davvero tutta l'Europa geografica è coinvolta. E, Claudio, è un modo nuovo, è un modo diverso, al di là di fare turismo, anche di respirare questa Europa. Sì, no, esatto. In realtà noi parliamo di cicloturismo, ovvero nell'accezione più generale, più alla tedesca e più all'olandese, ovvero il turismo in bicicletta, il che significa che noi attraversiamo e percorriamo i territori in maniera tranquilla, però lasciando una traccia, nel senso che il cicloturista si sposta, consuma, dorme e lo fa in una maniera diciamo normale, ecco. Nuova come metodo e nuovo un pochino per noi italiani, che abbiamo un'idea del turismo leggermente diversa, più comodo. Ma sicuramente per i 10 milioni di cicloturisti tedeschi questo è già un modo di essere già consolidato e già praticato da loro. Ripeto ancora eurovelo.com per avere maggiori informazioni, insomma è un modo diverso, un modo nuovo, un modo lento anche per conoscere l'Europa facendolo in bicicletta. Grazie davvero Claudio, buona estate. Va bene, a voi, grazie. Ciao, buon sabato. Europost-it. Viaggiare sicuri, una guida della Commissione europea. State per partire per le vacanze? La cittadinanza europea è una garanzia. Gli uffici delle istituzioni europee vi assistono per molti dei problemi che possono capitare viaggiando. Potete richiedere il loro aiuto se il vostro volo viene cancellato, oppure se avete bisogno di un medico, oppure ancora se i vostri acquisti all'estero si sono rivelati difettosi. Se volete conoscere meglio come siete tutelati, il Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha riportato un utile vademecum curato dalla Commissione Europea sul proprio sito. Fateci un giro, vivieuropa.it. E ricordatevi, grazie all'Europa, ora anche le tariffe del roaming telefonico sono drasticamente ridotte. Calu já lampentera e latru in ma Tita mie ospeju denti anin O se samia ospeju da rusa Ti metti o brugo rete no intencantum Che se da capas gucian cugina astria Gioia de conta Partire dal cibo per far conoscere il proprio territorio e quindi puoi alimentare anche il turismo. Questa è la ricetta, abbiamo De André che ci sta cantando la sua ricetta, ma questa è una ricetta anche utilizzata e sfruttata per fortuna da alcuni comuni che trovano fondi europei per incentivare il turismo partendo proprio dal territorio, e questi fondi europei diventano poi creatività, diventano progettualità. La storia di oggi parte da un convegno che ha catturato la nostra attenzione, un convegno che si è tenuto a luglio, la dieta mediterranea, acqua e grano della Valdaso a Petritoli, e da lì siamo partiti per raccontarvi questa storia, una storia di unione, perché sono alcuni comuni che si sono messi insieme, di visioni, quindi bussare anche alle porte dell'Europa partendo dal territorio, oppure dalla pesca, che sono gli elementi che danno nutrimento a queste zone, e da lì ideare un percorso. Di tutto ciò ce ne parla Barbara Toce, che è presidente dell'Unione dei Comuni della Valdaso, siamo nelle Marche, e sindaco del comune di Pedaso. Ciao Barbara, buon sabato e benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno a tutti, grazie di averci chiamato e di averci dato questo spazio così importante all'interno del vostro programma. Allora, questo è un link diretto tra il locale, quindi piccoli comuni di un territorio importante, e il centro dell'Europa, un contatto, un link, una relazione che sta portando e ha portato benefici concreti. Ci puoi raccontare un po' questa storia, Barbara? Ma la storia nasce già nel 2000, quando alcuni piccoli comuni, come hai detto tu prima, noi il più grande ha 3200 abitanti, quindi il più piccolo ne ha 400, e siamo all'interno di una bellissima valle che è la Valle dell'Aso, che quindi dalla foce di Monte Monaco, dove nasce l'Aso, fino alla foce dell'Aso tra Altidone e Pedaso, dove sfocia questo bellissimo fiume, questa valle incantata, questa valle che per anni è stata, diciamo, la valle della pesca della Val d'Aso, che era rinomatissima. Sì. Poi purtroppo ci sono stati un po' di eventi esterni che l'hanno un po' dimenticata. Adesso, grazie anche ad amministratori, a territori, a Proloco e a volontari che hanno voluto di nuovo, diciamo, ridare una bella spinta a questa valle, si è cominciato di nuovo a lavorare, e quest'unione di 7 comuni ha allargato i propri progetti con questo progetto dell'ecomuseo, che è questo museo diffuso su tutto il nostro territorio, che cerca di dare vita a sapori, tradizioni locali, cibo, buon cibo. E di lì poi siamo riusciti a prendere dei finanziamenti grazie all'Europa, grazie ai gruppi di azione costiera sul mare e al GAL, che è il gruppo di azione locale per le zone rurali. E di lì è nato un progetto che sta veramente avendo un successo molto molto interessante, che ci sta portando abbastanza alla ribalta. L'altra Europa. L'Europa investe nelle zone rurali, questo è uno dei, è il nome di uno dei progetti del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Anche grazie a questi finanziamenti è nato uno dei progetti di cui stiamo parlando, Cucina a Regola d'Arte. Con noi Barbara Toce, presidente dell'Unione dei Comuni della Val d'Aso e sindaco del comune di Pedaso. E Barbara, prima di capire come si è avviato questo abbraccio con l'Europa, come avviene un'intuizione? Cioè, ci sono amministratori e qualcuno di voi ha avuto l'idea? Qual è il primo passo? Come è nata la... Il primo passo è stato quello di mettere da parte i nostri campanili, i nostri campanilismi e quindi cominciare a lavorare insieme, anche perché le Marche sono un territorio bellissimo, ma secondo me ancora poco conosciuto. Quest'anno stiamo vedendo tantissimi stranieri che si stanno affacciando sulla nostra regione e rimangono strabiliati, perché queste dolci colline che naufragano, come diceva Leopardi, in questo mare azzurro sono sicuramente una cosa meravigliosa, con alle spalle questi monti sibillini che danno veramente l'idea di una regione meravigliosa, che forse ha lavorato poco sul turismo, una regione che adesso invece si sta affacciando sempre di più, e amministratori di un territorio che hanno capito che l'unione fa la forza, e l'unione dei prodotti sicuramente fa la forza, non ci dobbiamo fare la guerra ma dobbiamo lavorare insieme. Certo. L'intuizione è nata da questo. E poi qualcuno ha guardato l'Europa. Come si fa a non perdersi nel burocratese in questi casi? Non è facile, siamo stati fortunati perché comunque sia sono nati degli organismi, per esempio il GAL, che è questo gruppo di azione locale che racchiude alcuni dei comuni, diciamo, che fanno parte anche della Val d'Aso e non solo, i GAC, di cui fanno parte alcuni comuni costieri, che sono degli organismi che hanno supportato i comuni grazie anche all'intervento di esperti che quindi hanno saputo comunque sia coniugare i vari aspetti, sia quello normativo che quello di accesso ai finanziamenti stessi, con naturalmente l'ausilio di persone che ci hanno dato veramente una mano. In questo caso parlo di Fabbrica Cultura, che ha aiutato i comuni del GAL nella realizzazione di questo evento che ha avuto un successo strepitoso, e che sta dando una mano anche ai gruppi di azione costiera per la realizzazione di altrettanti eventi sulla costa per la valorizzazione del pesce. Fabbricacultura.com è il sito per conoscere le attività, ecomuseovaldaso.it invece per conoscere l'esperienza di questo ecomuseo diffuso. Come sempre ci piace anche far conoscere queste esperienze, perché sono buone pratiche che possono essere anche replicabili, ovviamente sono le vostre ricette, sono i vostri prodotti, però il modello può essere anche copiato, può diventare così incentivo per cose per simili. Altri, certo. E Barbara, grazie davvero, complimenti e in bocca al lupo per il proseguo delle vostre attività. Vi aspettiamo nella nostra bellissima regione, e ci sono veramente ricca di tanti eventi, quindi grazie per averci dato questo piccolo spazio. Faremo nostro questo invito. Buona estate, ciao, grazie. Grazie, arrivederci. Europost-it. Vota la tua vignetta per l'Europa preferita. Fino al 14 settembre c'è tempo per andare online e votare la vignetta migliore nell'ambito del concorso Una vignetta per l'Europa, organizzato dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea in collaborazione con la rivista italiana internazionale Vox Europe e con la partecipazione di Euronet Plus. Il concorso, giunto alla sua quinta edizione, vuole dare un riconoscimento all'impegno dei vignettisti che si occupano di informazione europea e un incentivo ad utilizzare modi creativi per partecipare al dibattito politico europeo. La vignetta più votata sarà premiata con un premio speciale domenica 5 ottobre, durante il Festival Internazionale di Ferrara. Le vignette che si aggiudicheranno il primo, secondo e terzo posto della giuria riceveranno anche un premio in denaro. Per vedere le vignette e votare la migliore, andate su internazionale.it/festival/concorso-vignette. Abbiamo iniziato questa puntata pedalando per l'Europa, questa puntata dedicata al turismo e al territorio. Adesso invece camminiamo un po'. Parte infatti, è partita da Firenze, la rete europea delle città camminabili. Si tratta del progetto WAP, Walking People, di cui il Comune di Firenze è ideatore e capofila. Diamo il benvenuto ad Andrea Vannucci, assessore allo sport del Comune di Firenze. Buongiorno Andrea, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, in cosa consiste il progetto Walking City e quindi il corrispondente progetto europeo Walking People? Walking City parte dalla necessità di promuovere in città l'arte del camminare. Il camminare, quindi sono stati predisposti dei 97 chilometri di percorsi, divisi in 18 percorsi, a loro volta suddivisi in 7 percorsi base, cioè 11 collegamenti. Tutti i percorsi ad anello, così che in qualsiasi momento uno non rischia di perdere l'orientamento. Ok, quindi e Firenze un po' è la città capofila di questo progetto. L'idea, anche qui la stessa domanda che ho fatto prima quando si parlava di biciclette, non è solo tracciare delle rotte da fare a piedi, è un qualcosa in più, nel senso che questi anelli sono segnalati, c'è un supporto, c'è segnalettica, ci sono guide, ci sono anche delle applicazioni per smartphone, ho visto, cioè è un progetto che va al di là del tracciare una semplice linea su una mappa. Assolutamente, è un progetto da questo punto di vista sicuramente multilivello, cioè che le informazioni sono disponibili su più piattaforme. C'è ovviamente il percorso dell'app, in cui l'applicazione Firenze Walking City, tra l'altro, è l'app più scaricata tra quelle messe a disposizione dal Comune di Firenze. C'è un sito internet e ci sono dei pannelli, delle steli lungo i percorsi che indicano dove ci si trova e che tipo di attività stiamo facendo, e poi sicuramente c'è tutto ciò che riguarda la diffusione delle informazioni tra i turisti, quindi negli uffici turistici sono stampati degli opuscoli che sono messi a disposizione gratuitamente di tutti gli utenti. E Andrea, ci sono altre città coinvolte già? Perché questo è il progetto Firenze The Walking City, che sono appunto questi 97 chilometri suddivisi in 18 percorsi, che è quello da cui siamo partiti. Cioè Firenze appunto voleva, nell'ambito anche dell'operazione che ha portato alla pedonalizzazione di buone feste, buone parte delle piazze del centro storico e non soltanto, di promuovere l'arte del camminare. Da lì siamo partiti per costruire un progetto europeo che si chiama WAP, Walking People, It's Never Too Late to Start, sì. Che ha coinvolto altri enti locali, ha coinvolto il Comune di Nova Gorica, Madrid, Dresda e poi ha coinvolto anche altre realtà, sempre pubbliche, sempre no profit, come l'Università del Terzo Settore in Italia e l'Università di Reims come partner scientifico del progetto. Certo, quindi altre città che stanno studiando il modello fiorentino, stanno applicando più o meno la stessa grammatica per incentivare il camminare come nuova forma di turismo in città, ma non solo, nel senso che non vi rivolgete solo ai turisti, gli stessi cittadini dovrebbero avere benefici da questa nuova concezione. Il quadro, e questo emerge con più chiarezza con ancora più chiarezza nel progetto europeo, è quello di prendere atto della realtà sociale in cui ci troviamo, cioè una realtà in cui abbiamo ottenuto un grandissimo risultato, è quello di una maggiore longevità della popolazione. Ma questo grandissimo risultato porta con sé una grande sfida, soprattutto per quanto riguarda i bilanci pubblici del futuro, della sanità del futuro. Quindi l'obiettivo macro è quello di promuovere un invecchiamento attivo e sano della popolazione, migliorare quindi la salute e la qualità della vita e rinforzare la sostenibilità ed efficienza appunto dei sistemi sociali e sanitari, il tutto promuovendo appunto l'arte del camminare, l'arte del movimento, e con una società in movimento è sicuramente una società più sana. Il movimento più semplice da mettere in pratica è sicuramente il camminare. Nel caso dei percorsi fiorentini ti permette anche di apprezzare angoli della città bellissimi, magari fuori dalle rotte classiche, e possono essere scoperte piacevoli sia per i turisti ma anche per i cittadini fiorentini stessi. Prima hai citato Dresda, Nova Gorica, Madrid. Ogni città può diventare una città camminabile? Quella è l'idea. L'altro obiettivo che all'interno del progetto WAP è quello di sviluppare appunto una rete europea delle città camminabili, volta all'ottenimento di finanziamenti europei nell'ambito del quadro strategico comunitario per i prossimi 6 anni, dal 2014 al 2020. Firenze è capofila di questa iniziativa e l'idea è proprio quella di diventare un interlocutore della Commissione, di tutti gli organi dell'Unione Europea sul tema del camminare. Andrea, ma confrontandoti con colleghi di altre nazioni, di altre città, hai notato se culturalmente sono più avanti rispetto a noi? C'è già l'abitudine a questo approccio cittadino rispetto a noi italiani? Ma sicuramente noi abbiamo una grossa passione per tutto ciò che è mobilità a motore, però qualche cosa sta cambiando, e sta cambiando in positivo. C'è tanta gente che lascia a casa la macchina o il motorino per prendere la bicicletta, e c'è sicuramente tante persone che per i propri spostamenti preferiscono andare a piedi. Questo è favorito soprattutto anche da un grosso investimento da parte delle amministrazioni pubbliche, tutto ciò che può essere per esempio una tranvia, come sta succedendo a Firenze. Sport che favorisce gli spostamenti da A a B e poi magari da B a C, che è un tratto breve, uno ci può andare a piedi. Assolutamente. sport.comune.fi.it/thewalkingcity per conoscere il progetto e da lì anche per scaricare la app Firenze The Walking City e capire anche cosa sta diventando questo Walking People. Grazie davvero Andrea, complimenti. Grazie. Buon lavoro, buon sabato. Grazie, buongiorno. Adesso un Europost-it, ci fermiamo per la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Europa per i cittadini. Candidature 2014 per progetti sulla memoria europea, progetti di gemellaggio di città, di reti di città e progetti della società civile. Per tutti i comuni o gli enti che sono interessati a promuovere attività di gemellaggio o progetti volti a creare reti di città o che lavorino sulla memoria europea condivisa o sul concetto di cittadinanza, ci sono bandi ancora aperti all'interno del programma Europa per i cittadini. Avete una buona idea che coinvolga altri comuni, magari anche fuori dall'Italia? Il vostro progetto può ricevere fino a 150.000 euro di finanziamento da parte dell'Unione Europea, che promuove attività condivise legate ai temi che ogni società deve affrontare, ma anche alla partecipazione attiva e alla memoria vista come riflessione sul passato, anche recente, dei paesi dell'Unione e come mezzo di educazione civica. Per presentare le candidature c'è tempo fino al 1 settembre. Per saperne di più, andate sul sito di Europa per i cittadini, dove trovate anche i link per contattare l'help desk telefonico e l'assistenza via email. europacittadini.it. L'altra Europa. Yeah. Ancora buon sabato da Federico Taddia. Questa è sempre l'Altra Europa, una puntata dedicata al turismo e al territorio. Con queste sonorità andiamo in Polonia. Loro sono Donatan e Cleo, hanno partecipato all'Eurovision di quest'anno per la Polonia. Lo sapete che ogni tanto andiamo a pescare un po' di canzoni all'Eurovision, perché così insomma ci danno comunque musiche da tutta Europa. Perché la Polonia? Perché la Polonia è il soggetto di questa avventura che vi andiamo a raccontare. Turismo e territorio spesso passa anche attraverso i gemellaggi. I gemellaggi sono progetti di scambio europeo, sono finanziati dall'Unione Europea nell'ambito del programma Europa per i cittadini, proprio per il loro valore di contaminazione culturale. Vi vogliamo raccontare questa storia, la storia di un gemellaggio che ha visto come protagonista il comune di Mandello. Siamo in provincia di Lecco, diamo il benvenuto alla dottoressa Silvia Colombo, presidente dei gemellaggi del comune. Buongiorno dottoressa, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno a Radio 24 e a tutti gli ascoltatori. Allora, qual è il valore di un gemellaggio? Che ricaduta ha sul territorio e sui suoi cittadini? Il valore del gemellaggio è duplice. Da un lato è una condizione ottimale per la conoscenza delle realtà altre all'interno dell'Europa e quindi preliminare alla costruzione di un'Europa di solidarietà e di pace, ma al di là delle finalità così più generali, sicuramente c'è una ricaduta anche interna sulla comunità locale, sia perché nell'occasione in cui abbiamo ospitato con un evento molto importante le altre delegazioni europee, tutta la comunità locale si è attivata in maniera molto significativa e partecipata aprendosi a questa realtà. E d'altro canto, siccome la missione che noi abbiamo composto appunto per le visite all'estero interessava un po' tutte le categorie sociali, si è creata la condizione per implementare anche proprio all'interno della comunità una serie di legami poi diciamo fecondi anche proprio a livello di comunità locale. Ecco, perché insomma spesso anche sono criticati un po' questi gemellaggi, no? Perché si dice vabbè, sono soldi spesi per organizzare giusto delle gite o fare lo scambio di piatti tipici, invece c'è ben oltre, per fortuna. Ci può raccontare un po' il contorno del vostro progetto? Allora, il nostro progetto è nato proprio perché l'amministrazione condivideva e abbracciava pienamente le finalità che erano quelle soprattutto dello scambio, della conoscenza e dello scambio di buone pratiche all'interno delle varie cittadine, per cui all'interno di un quadro normativo che cambiava di volta in volta naturalmente per i rispettivi paesi coinvolti, si è cercato di conoscere e di approfondire una serie di risposte che le varie cittadine hanno dato ai bisogni di welfare di volta in volta registrati. La verità dietro un sorriso era il titolo, esatto, di questo progetto. Quali erano le città coinvolte, i paesi coinvolti? Allora, i paesi coinvolti erano Cipro con la cittadina di Leskara, Grecia con la cittadina di Alexandria, la Macedonia con Kavadarci, la Polonia con Mlawa e la Lettonia con la cittadina di Kekauas. All'inizio si era candidata anche la Spagna con la cittadina di Colindres, ma poi probabilmente per difficoltà economiche non è poi entrata di fatto nel progetto, appunto, ed è stata surrogata dalla Lettonia. Quindi anche tanta nuova Europa. È complicato dal punto di vista anche amministrativo, burocratico, organizzare un gemellaggio, accedere ai fondi, insomma, e entrare in quello che apparentemente può essere anche un ginepraio, perché sappiamo che c'è anche quell'aspetto lì, per fortuna sempre meno, ma c'è. Di fatto noi abbiamo posto la candidatura attraverso l'AICRE, che è l'organismo ufficiale per l'organizzazione dei progetti di solidarietà e di conoscenza europea. Poi il comune capofila in realtà era il comune di Nassaud in Romania, che aveva un ufficio esattamente preposto a intercettare i bandi di solidarietà europea, per cui il lavoro, diciamo, organizzativo, soprattutto i focus delle varie missioni sono stati identificati e gestiti direttamente dall'ufficio di Nassaud. Certamente a livello locale puoi organizzare la missione nel migliore dei modi, quindi preparare le relazioni, le presentazioni in PowerPoint eccetera da condividere all'interno della missione. È stata una sfida faticosa ma entusiasmante, in cui mi piace ricordare il contributo particolarmente significativo che è stato dato dai giovani, perché nelle nostre missioni di volta in volta avevamo gruppi di 10 persone, quasi sempre avevamo almeno la metà del gruppo costituito da giovani che, padroneggiando bene l'inglese, che era la lingua veicolare del progetto, le nuove tecnologie eccetera, sono stati davvero preziosi in questo contesto. Progetto di scambio che adesso si è concluso, anche se insomma per mantenere vivo il legame continuate almeno con la Polonia, vero? So che ho organizzato un viaggio ad agosto per... Esattamente, in occasione della rievocazione della battaglia di Mlawa. La Polonia è un paese che, come tutti sanno, devastato dal punto di vista storico, anche della storia recente, conserva appunto gelosamente la propria memoria storica e sceglie di tramandarla naturalmente oltre i canali cognitivi tradizionali, la scuola eccetera, anche attraverso una serie proprio di rappresentazioni che hanno un fortissimo impatto emotivo. Quindi noi 2 anni fa assistemmo a questa rievocazione dell'attacco nazista alla Polonia nella cittadina di Mlawa, che contribuì con un numero enorme di morti purtroppo, ogni anno appunto viene rievocata questa situazione con rappresentazioni di volta in volta diverse che coinvolgono tutta la popolazione, no? Quindi con un numero altissimo di figuranti, e l'impatto è davvero molto molto forte, quindi forse la Polonia in questo senso ha scelto di parlare anche alle emozioni, oltre che in senso generale alla cultura e alla conoscenza della propria storia. E certo, insomma, una nuova mappa delle emozioni credo che sia fondamentale per incentivare il territorio anche e soprattutto in chiave europea. Grazie davvero alla dottoressa Silvia Colombo, presidente dei Gemellaggi del comune di Mandello, in provincia di Lecco. Buon sabato, alla prossima. Grazie a voi per questo spazio. Buongiorno. Europostit. Stage presso la Commissione europea. La Commissione europea offre 700 posti per altrettanti tirocini retribuiti, della durata di 5 mesi e che cominceranno in primavera del 2015. Per partecipare occorre avere una laurea, anche triennale, e conoscere inglese, francese o tedesco. I ruoli che ciascun tirocinante ricoprirà sono legati all'ufficio cui verrà assegnato. La sede del tirocinio è Bruxelles ed è una grande opportunità per scoprire come funzionano le istituzioni europee. Per candidarsi c'è tempo fino al 29 agosto. Trovate informazioni e bandi sul sito della Commissione europea ec.europa.eu/stage. I remember the promise that you made in the barn when the kittens were born, and you could not keep warm, so you moved away the mountain that the sun rose behind, and you said yourself a prayer and lay down with the blind. But you lost him in your freedom, and you need him now you're wild. Blessed is the memory of everybody's child. Favorire la nascita di una rete di istituzioni che nel bacino del Mediterraneo cooperino per la salvaguardia e la valorizzazione di siti archeologici e dei contesti urbani, per condividere le buone pratiche, promuovere scambi tra gli operatori del settore e ampliare il progetto coinvolgendo altri paesi europei e mediterranei. Questo è lo scopo di Archeomed Site, progetto cofinanziato nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera dell'Unione Europea. Ne abbiamo già parlato qui all'Altra Europa, ma dal 1 luglio online il sito del progetto per la salvaguardia, gestito da Italia, Libano e Tunisia, e quindi torniamo molto volentieri con l'argomento. Lo facciamo nuovamente con Michele Colavito, capo progetto di Archeomed Site per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Ciao Michele, ben ritrovata all'Altra Europa. Grazie Federico, buongiorno a tutti e grazie soprattutto per lo spazio e l'attenzione che ci dedicate, è un piacere. Una data importante è quella del 1 luglio, perché insomma era un traguardo a cui stavate lavorando da un po' e finalmente è online questo sito. Assolutamente, è online il sito, devo dire siamo riusciti a rispettare le scadenze che insomma ci eravamo dati per poter far sì che la comunicazione su questo progetto partisse in tempo utile per l'organizzazione poi delle successive attività. È online non soltanto il sito, che è appunto archeomedsites.com, ma è online anche la pagina Facebook con cui intendiamo fornire aggiornamenti anche in tempo reale, scambiare informazioni e diffondere un po' la conoscenza dei siti che fanno parte del progetto, e devo dire che in poco meno di un mese abbiamo raggiunto una diffusione veramente significativa che, come dire, ci carica ulteriormente di responsabilità. Quindi noi siamo pronti, poi stiamo già organizzando una serie di attività da realizzare con la fine dell'estate, quindi a brevissimo, e se mi consenti vorrei lanciare, certo, alcuni appuntamenti che poi ovviamente diffonderemo opportunamente nei nostri canali di informazione, perché i primi appuntamenti che noi vorremmo sono di coinvolgimento diretto di giovani, soprattutto studenti, quelli che si vogliono affacciare all'attività lavorativa di archeologia sul campo, di studio, di ricerca e analisi, e quindi stiamo organizzando per il mese di settembre e ottobre degli appuntamenti in collaborazione con il Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, che è un organo del Ministero dei Beni Culturali attivo da tanti anni per affrontare e risolvere problematiche legate alla tutela delle aree di interesse archeologico e per fronteggiare quelle attività di scavo clandestino, l'impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato. Sono famosi molti dei ritrovamenti che il Comando dei Carabinieri ha realizzato negli ultimi anni, e quindi vorremmo in scenari prestigiosi come per esempio la prossima Borsa Archeologica Mediterranea del Turismo di Pestum, sì, che si terrà a fine ottobre, già in quella sede coinvolgere giovani studenti per realizzare questo seminario di sensibilizzazione nei confronti di queste tematiche. Seminari che poi realizzeremo anche ovviamente in Tunisia e Libano, dove c'è una forte richiesta di informazioni da questo punto di vista, perché se è vero come è vero che l'obiettivo del nostro progetto è quello di individuare le azioni più efficaci per la tutela e la valorizzazione poi di questi siti, è anche vero che la popolazione deve anche essere informata su quelli che sono i rischi collegati al patrimonio inestimabile come quello presente in questi territori. L'altra Europa. Archeomedsites.com, il sito che vi invito ad andare a visitare, perché è un sito non solo per addetti ai lavori, non solo per appassionati, è veramente un viaggio archeologico a cavallo del Mediterraneo. In questa puntata dedicata al turismo e al territorio, guardare alla nostra storia è fondamentale. Michele, quali sono le ricadute reali che ci sono sul territorio grazie a questo progetto? Dunque, noi adesso abbiamo già messo in cantiere delle attività di analisi dei, sì, singoli territori, delle dinamiche che possono poi innescare processi di sviluppo locale. Abbiamo analizzato le realtà che sono presenti in questi territori e vorremmo di queste analisi farci portavoce in contesti anche di carattere internazionale. Per esempio abbiamo in programma di partecipare al Salone Internazionale del Patrimonio Culturale che si terrà a Parigi a novembre, perché vorremmo che l'Italia si facesse portavoce anche presso l'Europa continentale, comunque in una partnership allargata, di queste istanze, in modo da attrarre anche investimenti in questi territori, perché la valorizzazione di questi siti con il patrimonio che è presente in questi territori possa comportare un coinvolgimento della popolazione nelle attività di gestione e valorizzazione, con delle evidenti ricadute economiche per i singoli territori, che vorremmo però anche estendere ad altre realtà della sponda sud del Mediterraneo. Siamo già in contatto tramite la nostra rete di ambasciate, di istituti di cultura, con altri paesi del Medio Oriente, della sponda nord dell'Africa, per poter allargare queste condizioni, queste buone pratiche, queste precondizioni per lo sviluppo economico, di modo che poi nel lungo termine possa beneficiarne l'intero bacino del Mediterraneo. Quanti sono i siti coinvolti ad ora? I siti coinvolti sono 8, perché sono Tiro e Al-Bas nel Libano, sì, Cartagine e Kerkouan in Tunisia, e poi ci sono i siti archeologici in Italia, che sono Pestum e Veglia in Sardegna, e nel territorio sardo, penso mi vengo in Campania, sì, nel territorio sardo sono Montesirae e Tuviceddu in provincia di Cagliari, e poi c'è il sito del Montesirae Carbonia. A Carbonia, esatto. E tra l'altro stavo navigando in contemporanea con le tue parole, e per ogni sito ci sono schede dettagliate, ci sono rimandi, ci sono numeri telefonici, anche riferimenti proprio pratici e concreti per chi volesse avvicinarsi a queste zone. Noi ovviamente vogliamo utilizzare il sito come veicolo anche di promozione dei siti e iniziare già da questo a innescare un circuito virtuoso anche di ricadute turistiche presso questi siti, perché l'impegno dei governi dei tre paesi è forte. Il partenariato di Italia, Tunisia e Libano è rappresentato proprio dalle amministrazioni pubbliche nazionali che hanno la titolarità e competenze in tema di tutela, salvaguardia e valorizzazione dei siti. Ecco perché l'impegno è forte, la responsabilità è altrettanto importante, e c'è anche l'impegno a estendere ad altri territori della sponda sud del Mediterraneo, sì, questa iniziativa, facendoci però noi come paese Italia portavoce di queste istanze che nascono da questi territori anche verso altri paesi, approfittando ovviamente anche della circostanza, per cui questo è il semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea, quindi l'Italia ha ben voce in capitolo per poter rappresentare queste istanze anche nel contesto dell'Unione Europea. Archeo Med Sites, anche questa è l'Europa. Grazie davvero a Michele Colavito, complimenti e buon lavoro. Grazie, un saluto a tutti. Europostit. You Talk, a parlare sei tu. Avete delle domande, dei dubbi o delle questioni da sottoporre a esperti di uno specifico settore o membri del Parlamento europeo? Vi piacerebbe che venisse realizzato un servizio giornalistico o un'intervista per avere queste risposte? Euronews, il portale di notizie internazionali che include anche una radio e una TV, ve ne dà la possibilità attraverso il programma You Talk. Le domande possono riguardare qualunque argomento legato all'Unione Europea e possono essere inviate in forma scritta o in video. Per farlo, basta iscriversi nella community di Euronews e poi mandare la propria domanda. Trovate tutte le informazioni anche in italiano su euronews.com/programmi/youtalk. I lived on a farm out in Iowa. I pulled the corn and I worked in the hay. Got trapped by a girl but a wiggle free. Heard the organ timber calling me. Will you tell me something, Mr. Lumberjack? Is it one for forward and three for back? Is it two for stop or four for go? Boy, ask a whistle punk, I don't know. Johnny Cash che canta Lumberjack, boscaiolo, sì, perché vi diamo una notizia, ci sono ancora i boscaioli in Europa, uno pensa, no, che sia così un'immagine poetica, invece no, ci sono, ce ne sono ancora tanti anche in Italia, e oggi vi vogliamo parlare di un progetto europeo in nascere che mette proprio la tutela dei boscaioli al centro. Parte da un piccolo comune, siamo a Calizzano, comune di poco più di 1500 abitanti, siamo in Val Bormida, nell'entroterra savonese di Ponente. Pensate che Savona è la provincia con la percentuale del territorio più alta di bosco in Italia, e con noi c'è l'avvocato Pierangelo Olivieri, che è sindaco di Calizzano. Buongiorno Olivieri, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a lei, buongiorno a voi tutti. I boscaioli e l'Europa, qual è il link che li collega? Beh, una volta tanto da un problema sembra poter nascere l'occasione di lavorare tutti insieme da chi vive e lavora quotidianamente, almeno in parte nel bosco, a quella burocrazia che tante volte crea problemi, invece a partire dal comune, con la provincia, con la regione e tutte le altre entità, tutti gli altri enti coinvolti nella filiera, poter appunto affrontare un problema che si era presentato l'autunno scorso, risolverlo e iniziare un lavoro insieme per poter tutelare, proteggere e regolamentare nel modo giusto questa attività che, come giustamente diceva lei, esiste ancora ed è importante, ed è la partenza della filiera del legno, e poter arrivare a dare delle risposte sia a delle esigenze economiche e imprenditoriali, sia alle esigenze altissime della tutela del patrimonio boschivo che abbiamo, e sia anche combinare tutto questo con una valorizzazione naturalistica e turistica che è molto importante in un'offerta che deve sicuramente essere in continua evoluzione. E noi da immediato introterra della Liguria, tanto famosa per le sue coste, ma che può offrire tanto altro, vogliamo proporci anche in questo. Certo, sono quei cortocircuiti che ci piacciono quando il piccolo territorio incontra la grande Europa e può nascere qualcosa. E da voi appunto l'anno scorso questa problematica reale, i boscaioli che hanno bussato alla porta dell'amministrazione, e voi che avete insomma preso la situazione di petto, perché voleva dire tutelare posti di lavoro, voleva dire tutelare famiglia, vuol dire tutelare la propria cultura. E qual è lo scarto che porta a cercare soluzioni immediate, a tentare di fare percorsi che vanno a coinvolgere anche altre città, altre nazioni, proprio per cambiare le cose? Beh, come diceva lei prima, la provincia di Savona è una provincia che orograficamente è proprio contraddistinta da questa presenza di terreni boscati molto, molto significativa, in particolare la Val Bormida, in particolare il nostro comune. Carizzano è a livello di abitanti molto piccolo, perché siamo 1560 residenti ad oggi, ma ha un territorio molto vasto, 68 chilometri, per darle un dato, è il quinto comune sui 69 di tutta la provincia di Savona. Okay. E tutto il territorio, a parte le zone abitate dalle sei frazioni che compongono il paese, è ricoperto da boschi, in particolare dalla faggeta del Melogno, che con un po' di sano campanilismo posso definire, ma perché è definita così a livello di studiosi ed è oggetto di interesse anche dall'estero, è considerato una delle faggete più belle d'Europa. Divide la Val Bormida, in particolare il nostro paese, dalla riviera con il monte Melogno, che è alto oltre 1300 metri, ci divide dal mare. Questa zona è interessata da questa faggeta molto importante, che fa parte di una zona SIC, sito di interesse comunitario. Nasce negli anni 90, l'identificazione da parte della Comunità Economica Europea, oggi Unione Europea, di zone che appunto, definendole con questo marchio, hanno una regolamentazione particolare di tutela, perché dalla fauna o dalla flora, per la tipologia di alberi o per la tipologia di animali che in maniera statica o periodicamente ci stanno, necessita di una particolare tutela. E questo è giusto, però si è arrivato a un assurdo, esatto, che costava con l'interesse economico, perché una norma prevedeva che da febbraio a luglio non si poteva usare, la norma dice mezzi a motore, il che vuol dire non si poteva lavorare, perché certo, non si può usare nel trattore, nella jeep, nella motosega. Adesso, Olivier, scusa perché abbiamo pochissimo tempo, e questa norma, grazie anche al vostro intervento, è stata abrogata. Adesso c'è un tavolo permanente per cercare di regolamentare la zona. Però avete coinvolto appunto alcuni comuni francesi, alcuni comuni della Grecia, proprio per fare un lavoro comune. Col gruppo di azione locale, nell'ambito dei progetti PSR che stanno finendo, il piano di sviluppo rurale comunitario che sta finendo ora, nel bando 2007-2014 si apre ora quello nuovo, un progetto di evidenza che sia di finanziamento per quelle che sono le parti più povere del legname, dove il risultato economico non conviene, e di promozione. Perciò mixare la lavorazione, la silvicoltura, il lavoro del boscaiolo con un lavoro con l'interesse naturale e quello turistico, per dare promozione e far sì che queste aree, banalmente la pista di esbosco, quella che viene fatta per passarci col trattore, sia poi utilizzabile anche per le biciclette, per le passeggiate a piedi in inverno, per le ciaspole, perché abbiamo anche la neve, e con la semplice camminata. Dunque tutto questo mixato sta portando, abbiamo avuto ospiti francesi e greci una ventina di giorni fa, e quest'autunno e l'inizio dell'anno prossimo ne cambieremo la visita con la Francia e con la Grecia, perché ci collega la castagna, che è un'altra essenza, e la castagna come frutto, e conseguentemente tutto questo messo insieme potrebbe creare un ensemble interessante, e dal problema, dal situazione patologica che ci è stata portata all'attenzione nell'autunno scorso, invece avere una grande risorsa. Seguiremo sicuramente, appunto, come andrà a finire questa richiesta, perché questo progetto, se appunto troverete i fondi, perché ci interessa particolarmente. Grazie davvero, complimenti e buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie a voi, a risentirci. Termina qua questa puntata dell'Altra Europa, interamente dedicata al turismo e al territorio. Un grazie a tutta la squadra, Margherita Aina e Silvia Righini, che con me hanno scritto la puntata, Carmelo Lauricella oggi alla parte tecnica, radio24.it per riascoltarci, per scaricare la puntata. L'appuntamento è a sabato prossimo. Ancora ciao da Federico Taddia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.